piacere a spasso nella collina, senza occhi indiscreti avrei potuto dirti quanto ti amo, senza neanche una lacrima, senza neanche un sorriso. Winston blu che ho lasciato in macchina potevano servire per insaporire l'aria con cattivi odori e cattivi umori, presero il posto della polvere nell'aria, aria spessa, aria di mare, aria di cimiteri mai costruiti, aria di tombe vuote mai aperte, aria di tombe piene mai chiuse. E mi dirai quando cazzo arrivano gli alieni, e mi dirai quando cazzo così per giungere ad uno stato d'animo di un pesce nero rosso in mezzo all'aria come una bellissima mongolfiera squamosa, boccheggio note distorte che si frappongono ai miei sudori freddi, e canterò un giorno questa canzone bellissima che si chiama amore. Ti prego torna da me, facciamo la guerra, facciamo l'amore, e i miei istinti riversati su un compattista. Centuria di Orione, e mi sentirei meno coglione.